Sala, dove era appunto proiettato un documentario che è stato realizzato grazie alla volontà e all'impegno del Circolo Ampi, del Circolo Culturale Ampi di Bolzano, ma anche con il Centro Audiovisivi della Provincia. E questa è una serata dove cogliamo l'occasione per proiettarlo e fare alcune riflessioni in compagnia dei nostri due storici, il professor Giorgio Mattaglieri e il professor Carlo Romero. È qui presente con noi anche il presidente della sezione Ampi di Bolzano, e per noi è una splendida occasione perché ricordiamo in questo modo anche un amico della biblioteca, Orazio Leonardi, che è scomparso poco tempo fa, però abbiamo avuto la fortuna di averlo per lungo tempo con noi, lucido, vivace, generoso, amico, che ha consegnato i suoi ricordi, sono diventati un libro, un memoriale, è stata una preziosa fonte di documentazione per le ricerche e ci ha aperto una strada, una conoscenza di un aspetto della storia anche locale, non solo diciamo di livello internazionale ma anche locale, che forse per certi versi era in attesa, no? Non si era potuto approfondire tutta una serie di argomenti, e lui è stato quello che in parte ci ha dato anche il via. A me il compito è quello di fare sempre un breve saluto e di ricordare che la biblioteca provinciale è qui presso il centro Trevi, aperta ogni giorno al piano terra, perché abbiamo cambiato sede da poco tempo. Prima di cedere la parola al presidente Riccardo Donatini, volevo ricordarvi, perché questo sarà un mio impegno fino a Natale, che da gennaio 2018 la biblioteca non manderà più le cartoline. Questo è un avviso di servizio che mi preme comunicare ogni volta che c'è l'occasione. Quindi chi avesse piacere di essere tenuto al corrente delle nostre iniziative può venire in biblioteca, viene aggiornato, oppure comunicare tramite l'iscrizione o semplicemente una comunicazione quello che è il suo indirizzo mail. Se non ha un indirizzo mail, lo gradiamo una visita periodica dove poi riceverà le informazioni di quelle che sono le nostre iniziative. Però le cartoline non le spediremo più e non le produrremo più per motivi ecologici ed economici. Ecco. Bene, vi invito poi al prossimo appuntamento, che è lunedì prossimo, sempre a quest'ora, sempre alle 18, anche questa è una conferenza di carattere storico, però un po' più attuale, legato all'immigrazione e al ruolo del Mediterraneo in questa fase. Bene, vi ringrazio, vi ricordo che la biblioteca ha una bibliografia, ci sono vari temi, testi per approfondire gli argomenti. Abbiamo una sorpresa questa sera, l'anticipo, c'è la casacca, una medaglia, la medaglia al valore e dei Gutschein che venivano usati all'interno di Sandostel, che ci ha messo a disposizione per questa serata la signora De Vita, che è qui con noi questa sera. Il papà, che non c'è più purtroppo da un mese a questa parte, è stato anche lui a sua volta un internato IMI e proprio a Sandostel. Quindi possiamo poi vedere, prendere visione di quella che era la parte degli indumenti che venivano usati da questi internati. Cedo la parola ai nostri professionisti e soprattutto in primis chiedo ad Orfeo Donatini di aiutarci nell'introduzione. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, a nome di tanti antifascisti Ciarparai. Per noi è un appuntamento molto importante quello di questa sera, perché è il completamento, la presentazione ufficiale di un nostro progetto speciale che abbiamo realizzato lo scorso anno, grazie al sostegno anche della provincia autonoma di Bolzano e con il suo assessorato alla cultura in lingua italiana. Ringrazio ovviamente, e a me ovviamente spetta questo compito dei ringraziamenti, ringrazio ovviamente anche la direttrice della biblioteca provinciale in lingua italiana, Claudia Augusta, la nostra carissima Valeria Treviso, per la sua costante collaborazione con noi per promuovere anche appuntamenti come quello di questa sera. con questo lavoro di ricerca storica che completa o quantomeno contribuisce a mettere nuova luce e nuovi elementi sulla drammatica esperienza degli ex simili internati militari italiani durante l'ultimo periodo della resistenza e della guerra. E il nostro compito è delegato ai due nostri storici, Carlo Romeo e Giorgio Mezzavira, ai quali cederò fra pochissimi istanti la parola, perché si tratta di uno dei capitoli davvero più drammatici che ha coinvolto centinaia e centinaia, migliaia di cittadini militari al momento dell'8 settembre e che hanno vissuto vicissitudini davvero, davvero drammatiche. Si tratta anche di un titolo particolarmente significativo, Anch'io ho detto no, ed è un passaggio che mi consente di riagganciarmi ad una discussione, ad un confronto, per fortuna con esiti assolutamente favorevoli e positivi dal nostro punto di vista, legati a quella frase di Hannah Arendt che è stata illuminata poche settimane fa in piazza del Tribunale: nessuno ha il diritto di obbedire. Una scelta a nostro avviso assolutamente di grande prospettiva e di grande valore culturale per la nostra città, ma non solo per la nostra città, che consente di, non dico rimarginare ferite, ma di mettere nella giusta luce le vicende storiche che in questa città in particolare hanno lasciato, e se ne vedono ancora tracce tangibili, hanno lasciato ferite talvolta assai profonde. È un cammino difficile quello del riproporre la storia con l'obiettivo della convivenza pacifica, con l'obiettivo di rilanciare comunque i valori fondanti della nostra Carta Costituzionale, i valori fondanti di una battaglia e di una lotta come quella della Resistenza, che ci consente oggi di beneficiare per noi tutti della libertà e dei diritti democratici, ma soprattutto consente alle future generazioni di giovani di poter avere quella libertà e quella possibilità di crescita culturale, sociale e civile che è mancata, ad esempio, alle migliaia e migliaia di eximi che questa sera vogliamo ricordare con questo contributo. Io vi ringrazio davvero per la partecipazione, che è numerosa, nonostante l'ora e nonostante la giornata, e quindi passo immediatamente la parola ai nostri storici, Carlo Romeo e Giorgio Mezzavira. Benvenuto anche da parte mia. Ci siamo organizzati in questo modo io e Carlo Romeo. Io dirò qualche parola per raccontare in breve chi fosse Orazio Leonardi e il significato, il senso, l'importanza della sua testimonianza. Carlo invece ricostruirà in breve la vicenda degli IMI. Vedrete dopo i nostri brevi interventi la versione integrale del video, dopodiché abbiamo pensato di lasciare spazio per brevi interventi e domande se ci saranno da parte vostra. Spiego brevemente come l'AMPI ha incrociato Orazio e la vicenda degli IMI. Nel 2006 circa venne fatta all'AMPI la richiesta di finanziare una ricerca sugli IMI, in particolare sul fondo IMI che era depositato presso l'archivio di Stato di Bolzano. L'idea era quella di fare un primo passo dentro questo capitolo abbastanza poco conosciuto, relativamente poi anche alla nostra provincia, quindi capire chi erano gli IMI della provincia di Bolzano, per cominciare a sondare un po' il terreno e provare a ricostruire in breve questa storia. Ora, al di là dell'importanza del fondo, questo passaggio è stato fondamentale perché ha permesso a quei pochi superstiti degli IMI che avevamo in provincia, che esistevano ancora in provincia, di poter iniziare a diciamo ricostruire il proprio passato. E badate bene, una ricostruzione molto, anche molto dolorosa. Era come, poi lo si capirà anche vedendo Orazio Leonardi che racconta la sua vita e la sua vicenda, la grande commozione che traspare dalle sue parole e dal suo stesso volto, dai suoi gesti. Bene, tra il 2006 e il 2007 è stata condotta questa ricerca che abbiamo raccolto poi in un numero della collana dei quaderni della memoria, comprese anche alcune testimonianze, e tra queste quella di Orazio Leonardi. Chi era Orazio Leonardi? Orazio Leonardi era nato a Padova nel 24, nel 33 la famiglia si era trasferita, aveva cominciato a vivere in provincia di Bolzano, a Bolzano in particolare, e all'età di 18 anni viene arruolato, e siamo ovviamente nel 43, viene arruolato e dopo pochi mesi, lui viene arruolato nell'agosto del 43 e il 9 settembre parte già nei carri per l'internamento. Rientrerà nell'agosto del 45 e verso la metà degli anni 50 aprirà un negozio di abbigliamento, condurrà una vita tranquilla e serena, e nel 2010 gli verrà concessa la medaglia, l'altra onorificenza del Presidente della Presidenza della Repubblica, come reduce, come internato ex IMI. Va detto che queste medaglie vengono concesse dal 2007 e in particolare con anche un interesse crescente per la vicenda degli IMI, già a quei tempi, o meglio ancora a quei tempi, piuttosto sconosciuta, e sulla quale incombeva la grossa questione: ma a queste persone chi ci sta pensando? Chi riesce a dare un significato alla memoria e alla loro vicenda? Pensate che la Camera se ne occuperà ancora negli anni 2000 per capire se potevano ricevere un assegno vitalizio o meno, se potevano essere riconosciuti quindi in pieno. Quindi da questo punto di vista la testimonianza di Orazio Leonardi e di altri IMI fu importante, non solo come non solo come valore della memoria, ma fu importante anche come strumento giuridico per sostanzialmente per dire quale fosse la reale condizione di questi internati, che non erano semplici militari, lo dirà meglio Carlo dopo, erano degli internati veri e propri costretti al lavoro coatto. E questa loro testimonianza portava questo dato importantissimo per un eventuale anche riconoscimento giuridico del loro stato in quei momenti e in quegli anni. Vorrei leggervi brevemente, sono poche righe, quanto Orazio scrive nel diario, che poi abbiamo raccolto, perché subito dopo che fu raccolta questa prima testimonianza di Orazio nel nostro quaderno della memoria del 2007, pubblicammo il suo diario integrale scritto dopo l'internamento, lo pubblicammo nel 2012, dal titolo Sandpostel anch'io, 43 anch'io ho detto no. Scrive nelle sue prime pagine che cosa lo ha portato a interessarsi del suo passato, sostanzialmente. Nell'anno 2005, navigando in internet con il motore Google Earth, ho visitato Amburgo. Naturalmente ho cercato di individuare in Werftstrasse la Renania Ossag, dove ho lavorato da prigioniero, prima e da civile dopo. Il lager di Sandpostel è stato uno dei più grandi campi di concentramento della Germania quindi non nei territori occupati ma della Germania. Era nel distretto di Amburgo, tra i due grandi fiumi, precedentemente era una zona paludosa, ci passarono più o meno 1 milione di internati, tra prigionieri di guerra, i primi sono stati ovviamente i polacchi e poi sono arrivati in seguito anche gli italiani. Con grande emozione nella fotografia scattata dal satellite ho visto la scritta Shell sul tetto di un grande capannone. Lui infatti lavorava come lavoratore coatto alla Shell. Ovviamente rispetto ai miei ricordi molte variazioni sono avvenute, dei canali sono stati interrati, la superficie della raffineria si è molto estesa, ne fanno fede altre ricerche qui sotto illustrate. Alla vista della raffineria il cuore ha cominciato a battermi furiosamente, ricordi dolorosi e tristi, di fame, di freddo, di fatica. Relegati da decenni in fondo al cervello, sono venuti a galla prepotentemente, coinvolgendo mia moglie e mia figlia nella scoperta. Quest'ultima mi ha suggerito di scrivere le memorie della prigionia, che anche i miei familiari non conoscono nei dolorosi particolari che ho vissuto. Spronato dal suo desiderio, mi sono accinto a scrivere quanto ricordo di quegli anni di prigionia. È stato un ritornare nel dolore e nella disperazione. Le lacrime mi hanno accompagnato nel ricordare particolari che avevo per 60 anni dimenticato. Piangevo e scrivevo. Ritornare nella realtà di quegli anni mi ha liberato da un peso finora nascosto. Il pianto, anche se improvviso e doloroso, era liberatorio. Ne è nato un racconto dal titolo Matricola 154012 XP, che è stato pubblicato nei Quaderni della Memoria del 2007. Durante quella scrittura la spinta emozionale era intensissima e quindi ho trascurato riflessioni e particolari, quelle riflessioni e quei particolari che poi completò nel suo diario. La memoria di cui parla Orazio Leonardi è effettivamente un percorso complesso, soprattutto per chi ha vissuto le vicende dell'internamento. Io ricordo nel 2010, quando abbiamo cominciato a frequentarci in occasione della stesura del suo diario, ogni volta che ci si vedeva era un misto di euforia e di sofferenza. Euforia perché aveva trovato l'ultimo ricordo, che non era mai l'ultimo, perché poi ci si rivedeva magari una settimana, due settimane dopo, e ne veniva fuori un altro. Erano come dei piccoli tasselli che ricostruivano un quadro che per molti anni appunto era rimasto nero, buio, e che il cui tentativo era cercare di capire che storia lui avesse vissuto. Perché questo era il problema. E in questi incontri, per lui, lo dice a un certo punto, erano come sedute liberatorie. Bene ha fatto la figlia che è qui stasera a spronarlo a scrivere. La scrittura è un'ottima terapia, oltre a tutto. Ma è anche importante per dare testimonianza di una memoria quale quella di Orazio e degli Imi. La memoria, sappiamo, è un corpo molto fragile e vanno studiate delle strategie sia per custodirla ma anche per farla emergere, per dare il senso di dove si inserisca anche la propria storia. Esiste una memoria individuale e una memoria collettiva. La memoria individuale è quella di cui parliamo, quella che Orazio sulla quale Orazio ha lavorato, che implica sofferenza sicuramente. C'è questo bisogno di andare fino in fondo alla verità, semmai questa verità esista. E dall'altra parte c'è la memoria collettiva e sono inscindibili le due, perché la memoria collettiva è ciò che diciamo grazie alla storia poi si riesce a contestualizzare e che dovrebbe diventare materia per una crescita civile, per una crescita di una coscienza critica matura e di una coscienza democratica. Ecco, questo io credo siano gli aspetti più importanti della testimonianza di Orazio e di dove questa testimonianza si iscriva, in quale contesto questa testimonianza si iscriva. Chiudo questa breve introduzione Dicendo che quando abbiamo presentato il suo diario nel 2012 o nel 2013, adesso non ricordo con precisione, mi scrisse una mail dicendo: caro Giorgio, è arrivato il gran giorno, sono emozionato, ci vediamo in biblioteca. Sembrava che fosse il giorno del giudizio. Dopo quella giornata per Orazio si è aperto un mondo, perché è stato chiamato, il senatore Bertoldi l'ha accompagnato nelle scuole, è stato intervistato da una studentessa di Amburgo, di madre italiana, che grazie alla sua intervista e al suo lavoro su Leonardi ha preso uno dei premi della Presidenza della Repubblica Germanica. Quindi diciamo che ha goduto anche, per così dire, giustamente, forse anche troppo in ritardo, di un passato doloroso e che andava ricordato, che andava giustamente apprezzato e valorizzato. Ultime parole le lascio uno stralcio dalle pagine del diario clandestino di Guareschi, anche lui internato nello stesso lager di Orazio. Non abbiamo vissuto come i bruti, non ci siamo rinchiusi nel nostro egoismo. La fame, la sporcizia, il freddo, le malattie, la disperata nostalgia delle nostre mamme e dei nostri figli, il cupo dolore per l'infelicità della nostra terra non ci hanno sconfitti. Non abbiamo dimenticato mai di essere uomini civili, uomini con un passato e un avvenire. La patria si affacciava ogni tanto alla siepe di filo spinato ed era vestita da generale, ma sempre veniva a dirci le solite cose, che il dovere, l'onore, la verità e il giusto erano non nella volontaria prigionia, ma in Italia, dove petti italiani aspettavano le scariche dei nostri fucili. Fummo peggio che abbandonati, ma questo non bastò a renderci dei bruti. Ed è vero. In una breve premessa al diario di Orazio Leonardi, Hannes Obermeier, che è qui questa sera in sala, ha scritto, secondo me, un ricordo importante, con un titolo altrettanto importante: Raccontare senza odio. Il racconto di Orazio è proprio un racconto senza odio, senza desiderio di vendetta, senza risentimento, alla ricerca della verità. Grazie. A questo punto io rimando eventuali approfondimenti e domande a dopo il video, perché la voce di Orazio è qui che, diciamo, spinge e freme. Io ricordo solo l'importanza della sua storia, di questa voce in mezzo a altre almeno 600.000. Dico almeno perché i numeri stessi riguardo agli internati militari italiani, i numeri stessi non sono precisi. Questo mostra il ritardo con cui la storiografia, l'ufficialità si è interessata a loro. Più circa 800.000 furono i soldati italiani catturati e disarmati nel 43, settembre 43. 700.000 di loro furono i deportati e 600.000 furono quelli che dissero no, quindi uno su quattro di coloro che furono catturati l'8 settembre 43 rifiutò qualunque tipo di collaborazione verso il Terzo Reich, verso la neonata Repubblica di Mussolini. Questo no è stato importante, è stato uno schiaffo ai regimi dell'asse. Ed era un no difficile da pronunciare. Perché? Perché dire sì diciamo equivaleva a tornare in patria. Dire sì voleva dire togliersi da questo inferno di fame e freddo, per cui è stata una resistenza pur senza le armi, una resistenza fatta in silenzio, ma che è stata molto molto importante. Certamente una volta tornati a fine guerra, la loro voce ha tardato ad uscire, forse sopraffatta ovviamente dalla voce più forte dei partigiani combattenti, da altre forme e quindi soltanto dopo molti anni si è messo in luce come anche questa, anche la loro fosse una resistenza. E i morti IMI furono 50.000, morti per la fame, per il freddo, per i bombardamenti, perché erano costretti a lavorare nei luoghi esposti a bombardamenti e non potevano andare nei rifugi. Diciamo che la loro è una storia dimenticata, è una storia che ha faticato a farsi conoscere. Due cose appunto su Orazio. Io credo che l'aspetto interessante e che mi ha colpito quando ho visto il girato di Franz, che è qui presente, il regista, è proprio il fatto che non provenga da un esempio particolare. Lui, quando viene catturato, è un ragazzo, lo dice lui stesso, non aveva ancora sparato un colpo di fucile se non al poligono di tiro. E quindi poi non ha una formazione politica né particolari ideologie, insomma, riesce a raccontare con un candore, un'autenticità tale che è veramente una voce secondo la quale riusciamo a capire veramente la situazione. Questa sua precisione sui dettagli è proprio la precisione del ragazzo che non sa cosa gli stia accadendo, tutta è una sorpresa, il giorno dopo non sa dove lo manderanno. E addirittura è interessantissimo nel momento che verrà, quando arriva a parlare della scelta decisiva, di quel no, e ricorda, sì, eravamo lì sul piazzale, è venuto l'ambasciatore insieme a un ufficiale con il Fez e ci hanno detto, e alla fine quasi non sa dire perché ha detto no, cioè, e dice una cosa apparentemente contraddittoria: io ho detto no, sono rimasto con la maggioranza perché mi sono detto che il destino sia quello che vuole, non lo forza, perché il destino ognuno se lo crea. E allora dobbiamo interpretarlo con gli occhi di quel giovane. Quel destino cos'era? Era l'esperienza che aveva fatto in quel periodo, era quello che aveva potuto imparare dal basso, nella conoscenza e solidarietà con i compagni, cioè che era una guerra sbagliata e che quello non poteva essere un alleato, diciamo, valido e buono, e soprattutto che la Repubblica di Mussolini non poteva essere buona perché era alleata di quella parte. E quindi, come dire, io credo che sia una testimonianza preziosa proprio per la sua autenticità e semplicità. E quindi adesso la sentiamo. Grazie. Come anche da altri documenti del Ministero della Difesa, del Ministero del Governo e delle Finanze, abbiamo estrapolato questi dati per registrarli, per far conoscere proprio chi sono i nomi e anche addirittura li abbiamo cercato di dare un volto a quei 50.000 che non sono tornati, insomma, no? Deve sapere che in Italia gli internati militari non sono stati mai considerati tantissimo come partecipi alla resistenza, eppure e c'è da domandarsi come mai 650.000 persone che potevano con una firma tornare a casa, riempire l'esercito, dare il gruppo sociale, aderire al gruppo tedesco, hanno preferito rimanere lì sfruttati. 50.000 sono morti, chiaramente che non sono morti, non sono stati uccisi dai tedeschi direttamente, ma sono morti per fame, per miseria, per malattie, per bombardamenti, per tutto, se stavano a casa loro difficilmente potevano così tanti. Quella degli IMI è stata definita l'altra resistenza, una resistenza senza armi, silenziosa, ma non per questo è stata meno coraggiosa. In Italia la loro resistenza non è stata sempre capita. Se ricordiamo, Tanta, che è stato il segretario del Partito Comunista Italiano, internato in Germania, per pubblicare il suo diario ne sono voluti tantissimi anni dopo. Accidentalmente era risuonata a Bolzano l'allarme della protezione civile. Qualche giorno dopo Orazio mi scrisse una mail dicendo: sai, ieri ho sentito l'allarme e mi sono ritrovato di nuovo nel passato, dicendo: sai, i tuoi anni sono lunghi da raccontare. Stiamo facendo una banca dati sugli internati militari caduti nell'area nazisti o comunque dopo la cattura, subito dopo la cattura. E poi c'abbiamo un sogno che ci stiamo provando, e fare l'albo del lessico biografico degli IMI, dei 650.000. È un tributo che bisogna dare a queste persone, molto in ritardo, dopo oltre 70 anni dagli avvenimenti, e diventa difficile trovare il materiale. Chissà se c'è cosa il nostro... Di Padova, 21-12-1924. Sì. Sappiamo di lui, sappiamo poco, sappiamo che stava nella fanteria ed è stato internato a San Boster, catturato il 9 settembre del 43, rientrato attraverso Bolzano il 5 agosto del 45, e ci abbiamo una fotografia. Mi chiamo Orazio Bernardi, sono nato a Padova il 21-12-1924. Siamo arrivati a Bolzano nel 1933 e da allora ci ho sempre abitato. Sono andato alle scuole elementari, che oggi è via, una volta si chiamavano via Regina Elena, invece oggi sono le scuole Dante Alighieri. Dopo ho fatto l'avviamento commerciale si trovava in una piccola casetta che era dietro il Monumento della Vittoria, che allora non esistevano tutti quei palazzi che adesso ci sono. Era una piccola casetta, quasi una casa d'abitazione, nelle stanze c'erano le aule scolastiche. Dunque, ho finito l'avviamento commerciale, mio padre aveva una sartoria in Corso Libertà e voleva che io imparassi il mestiere di sarto, però a me non piaceva. Però aveva aperto un negozio di abbigliamento, così che mi sono adattato a fare come commesso di negozio, eccetera. Come tutti i giovani di allora si andava alle adunate del Partito Nazionale Fascista, perché eravamo tutti inquadrati, che eravamo in Barilla, avanguardisti, eccetera. Arrivato il 25 luglio, praticamente alla caduta dei Mussolini, è caduto tutto l'apparato fascista di allora. E eravamo tutti quanti più o meno contenti che non davamo più radunate e niente. 31 agosto io ho dovuto andare sotto un militare, mi hanno chiamato alla leva militare. Praticamente sono andato in via Druso, che c'era allora distretto, e da lì mi hanno assegnato alla 232esima fanteria di Bolzano. Ero contento perché rimanevo a Bolzano, così potevo andare a casa, a farmi la doccia, eccetera. Arrivati in caserma mi sono cadute le braccia, ho visto un disastro completo, altro che l'esercito italiano invincibile. Dunque, sono arrivato che stavano distribuendo la zuppa, i militari avevano le gavette, e su quelle gavette dopo si sedevano per terra con i barboni per mangiare, o sui gradini, come non c'era un posto, non c'era una stanza dove andavano a mangiare. E dopo cosa ho visto che prendevano la terra del cortile e pulivano le gavette. Mamma mia, non avevo neanche sapone, non c'era niente proprio. Sono andato un momento, poi mi dico, e qui, altro che andare a fare il militare. Praticamente mi danno una divisa usata, che aveva le maniche che mi arrivavano sopra i polsi, una giacca che la giacca aveva un buco sulla schiena che era stata ricucita, e un paio di calzoni che erano di due misure più larghe, perché io sono magro, alto ma molto magro. La vita militare, cari miei, non era un sogno, era avanti e dietro, avanti, marcia e via. Ci hanno dato il fucile che era della guerra 1915-18, che era il famoso fucile modello 91, che era alto come me. E quando c'erano quelle reclute che erano piccole, il fucile era più alto delle reclute. Insomma, eravamo proprio disorganizzati al massimo. Cominciarono gli allarmi. E dovevamo correre tutti quanti con gli zaini, con il fucile e altra cosa, tutti al poligono di San Maurizio, che era circa 400 metri, 500 metri dalle caserme, tutti di corsa, un'armadia che correva, tutto disorganizzato, perché no, correvamo tutti quanti, almeno per conto proprio. E arriviamo l'8 settembre, e mi dico, sai, gli sai, è finita l'armistizio, è finita la guerra, cosa diranno i tedeschi che noi abbiamo? Eravamo amici e tutto tratto stiamo diventando quasi nemici, nemici no, ma cosa possono fare di noi? Quello è il tigre che spara primo colpo di cannone contro il corpo d'armata per far prigionieri tutti i nini, quelli che saranno trasformati in nini di Bolzano, per portarli dentro l'area. Li accompagnarono prima al campo sportivo, riportandoli tutti dentro l'arco del Tavola. Non sappiamo quante migliaia di loro furono catturati. Bolzano li guardò, Bolzano li vide tutti, perché dal ponte Tavola e alle sulle rive del Tavola i parenti, gli amici che li conoscevano rimasero tutta la notte a guardarli per portarli chi un paio di scarpe, chi una maglietta, chi qualche cosa. Sono state le 3 e le 4, tutto tratto, sparate, mitragliatrice che vomitavano fuoco, un proiettile caduto sopra il tetto della caserma, e tutti i soldati che erano al piano superiore correvano giù, urlando, gridando. Era un terrore proprio generale. Non sapevamo cosa fare, eravamo annichiliti dalla tal paura. Una voce in tedesco si è messa a parlare, urlava più che parlava. Poi un interprete, qualcun altro in italiano, ha detto: scendete tutti senza zaini, senza niente, vestiti col cappotto e basta, non portate via niente, mani alzate e scendete. Siamo scesi e abbiamo visto subito una ventina, 15, 20 soldati con i cuori in vista spianati che ci aspettavano, che uscivano dalla porta della caserma. Ci hanno radunati come pecore, da dire, tanti tutti quanti riuniti, ci hanno fatto sedere per terra, e ci tenevano appunto sotto tiro di armi. C'era un carro armato anche sul cancello che era, dico, chi è che può resistere a questa gente? Noi eravamo uccisi, ma non avevamo neanche una parola, perché non avevamo dato neanche una parola, niente, non sapevamo neanche come si spara, perché c'era solo il fucile da tenere in spalla avanti e indietro e fare le marce e basta. Insomma, roba da pazzi. Intanto vediamo gli ufficiali che scendono con i zaini e vanno fuori dalla caserma. Tutti poi con i militari tedeschi, con il mitra spianato, e li fanno uscire, dico, adesso dove li portano un po'? E noi cosa facciamo qua? Forse noi ci lasciano qua, portano via i responsabili dell'esercito, e noi ci lasciano qui, e riprenderemo di nuovo le nostre cose. E invece cara mia ci fa alzare anche noi e tutti in fila ci fanno uscire dalla caserma. Mamma mia, dico dove ci portano? E io ero senza zaini, senza niente, eravamo, perché molti avevano i zaini, ma molti no, e la maggioranza, perché la caserma era di tre padiglioni, e il nostro padiglione, che erano tutte reclute, mi hanno fatto uscire senza zaini, gli altri che erano usciti dall'altra caserma avevano i zaini, e noi volevamo che noi i zaini, non cosa facevamo senza niente, niente da fare. Praticamente passiamo per Piazza Gries, Corso Libertà, quando sono sotto casa mia mi è venuto un malone, le lacrime agli occhi, dico qua ormai non le vedrò più questa casa. E niente, siamo arrivati al Monumento della Vittoria e lì ci buttano giù nel padre. E dico, la cosa come va? E lì c'erano un sacco di militari già arrivati dalle altre caserme. E praticamente nelle parti asciutte del torrente eravamo tutti là, ammucchiati sulla sabbia, sui sassi. Dico, mamma mia. E per due giorni tutti rimangono sotto l'acqua, piove, quando vuole andare, tutta la storia. Piove, per due giorni rimangono sotto l'acqua dentro la larga del padre. Due giorni dopo li fanno uscire da Dabo del Tal e sempre sotto guardia armata della SOC vengono accompagnati alla stazione, caricati su carri bestiame e portati in campi di concentramento appositi per i soldati italiani. Appena catturati, i militari italiani si videro tolto il loro status di prigionieri di guerra. Non furono considerati prigionieri di guerra come gli inglesi, gli americani, ma per loro si inventò questo nome, internati militari italiani, che non corrispondeva a nessuna categoria delle leggi di guerra. E questo rese molto più difficile l'assistenza a questi militari da parte della Croce Rossa. E vedo proprio i miei genitori che stanno parlando con una sentinella tedesca. Io ho visto, ci sono un po' sorrisi, ci siamo abbracciati, ho visto i loro occhi il terrore, ho visto la loro angoscia. E praticamente abbiamo detto cosa succederà. Eravamo in 30 per vagone. E finché il treno doveva partire c'era la gente italiana che ci venivano a buttare da mangiare, ci buttavano dei vestiti per sperando che potevamo scappare, no? E niente da fare, i soldati erano lì tedeschi che li mandavano via con calcio del fucile, erano momenti di intensa, io avevo una paura tremenda, ero un ragazzo, avevo 18 anni appena, poco più di 18 anni, dunque ero civile, ero 15 giorni che ero sotto le armi, dunque non è che avevo già un'esperienza militare, no, ero un civile messo, buttato dentro in questo inferno. Erano le tre e il treno comincia ad andare, meno male che aveva lasciato i spostatori aperti, e così abbiamo visto passare tutti quanti i paesi, le nostre montagne. È un magone, ci prendeva tutti quanti, perché se ti dava fuori cosa potrà succedere adesso? Cosa succederà? Arrivarono a Brenno e quando siamo passati il confine abbiamo proprio sentito che per noi era finita. Il futuro era tragico, senz'altro non poteva essere, non è stato tragico. Abbiamo viaggiato per due giorni e siamo arrivati a Bremen, era il giorno 12. siamo subito accolti dai civili tedeschi che ci gridano Badoglio, Badoglio, e ci mostrano i buoi. Arriviamo un po' qua, cominciano già adesso, cosa potrà succedersi ancora? Non si volevano considerare prigionieri di guerra, perché sarebbe stato come riconoscere il governo del re, e quindi furono trattati come dei traditori, dei badogliani. Niente, ci hanno impolonati e abbiamo camminato per 10 km e siamo arrivati a San Bosco, che era un grande campo di concentramento. Solo vedevo, cioè avevo la paura e il destino che si stava per compiere per loro. Nel grande campo di concentramento di San Bosco si ritrovarono figure dai destini lontanissimi fra loro. C'era Giovannino Gualeschi, il futuro autore di Don Camillo, c'era Alessandro Natta, il futuro segretario del Partito Comunista Italiano, c'era Giuseppe Lazzanti, il futuro leader della Democrazia Cristiana, pittori come Novello, filosofi come Pace e addirittura insomma intellettuali di ogni provenienza. Ci hanno portato dentro una baracca dove era buia, c'erano questi castelli che erano tutti sporchi, i lettici erano pieni di unto. Insomma, da un momento eravamo così stanchi che ci siamo buttati su questi tavolacci di legno, perché non c'era né materasso, non c'era niente. Siamo andati per bene dove c'era l'avatoio e c'era un'acqua gialla che usciva fuori, cattiva. Chi è che poteva bere quella roba lì? Anzi, peggio ancora, sono praticamente passata la prima notte proprio nella disperazione. Continuavo a piangere perché ricordo qualche vita per me. Guarda, al mattino dopo ci svegliamo, subito fuori all'aperto, eravamo tutti mezzi nudi e dovevamo stare zitti che qualcuno parlava, veniva una sentinella, ci dava un cazzotto oppure con un calcio di fucile ce le dava sulla schiena. E già detto, voi siete dei traditori, dovete pagare per il tradimento che avete fatto alla Germania. E insomma passano le settimane e la vita è sempre quella, un po' di brodaglia a mezzogiorno, proprio brodaglia, perché c'era qualche foglia di cavolo e basta. Poi ti danno una fettina di pane e l'arco un dito, con un po' di margherina. C'erano le docce, ma erano docce fredde, per chi è che andava a farsi la doccia? Dopo vestirsi con le torre, non avevamo niente, neanche un mezzo, una mano, niente, non avevamo. Dunque, più che lavarsi la faccia e gli occhi, alla mattina non facevamo le mani, e basta. E allora alla notte ci si ghiacciava, dormendo così sul duro, senza niente, senza coperte, senza niente, eravamo solo coperti dalla nostra divisa e dal cappotto che avevamo e basta. Praticamente ci si svegliava di notte che c'erano i piedi che erano duri, facevamo fatica a muovere le dita. Sì, eravamo anche pieni di pidocchi e di cimici che ci succhiavamo tutto il corpo tempestato di morsicature di questi animali immondi. Un freddo cane, eravamo lui, con tutti quanti come verme, si saltava, ci saltavamo per scaldarci, ci siamo visti uno con l'altro come eravamo diventati magri, perché senza mangiare per 2 mesi con quello che ci era dato. Era un freddo cane, era il 2 di novembre. E lì, cari miei, camminare 10 km in quelle condizioni che eravamo già debilitati, e chi toppicava, e chi cava. Qualcuno di noi, io anche, eravamo debole, e eravamo gli ultimi della coda. E lì allora prendevamo anche le bastonate perché dovevamo ancora camminare più in fretta. Insomma, come arrivamo? Siamo arrivati alla stazione. Ci hanno caricato in 50, in un vagone, 50, dunque stavamo in piedi come le sardine, in 50. Ci hanno chiuso il vagone e sono stati là, non sapevamo niente. Sono passate delle ore addirittura, finalmente il treno si è messo in moto. Va avanti, va per mezz'ora, un'ora, e dopo si ferma di nuovo. Sentiamo che scanciano il vagone e ci lasciano di nuovo fermo. Insomma, siamo stati fino alle 11, che siamo arrivati alle 11 alla stazione, sempre al buio, senza mangiare, senza niente, al freddo caldo che c'è. Insomma, quando hanno aperto il portellone, io ho detto, ah, finalmente siamo arrivati, che sia quel che sia, possiamo muoversi alle gambe, perché 50 persone in un vagone, non ci si poteva neanche muovere. Poi, senza pensare che dovevano fare la pipì, eccetera, eccetera, tutte le robe che purtroppo abbiamo passato, tutte queste cose. È arrivato il maresciallo tedesco con tutto arrogante, cattivo, no, appello, fuori dalla baracca, Alfredo. Ci hanno detto, siete a Zamburgo, perché non sapevamo neanche dove eravamo. E siamo nella raffineria del Shell, da dove voi dovrete lavorare. E il lavoro sembrava anche facile, perché dovevamo spostare dei bidoni da un posto all'altro, eccetera. Però dopo un pochino che si lavorava, io sono alto, e per spingere i bidoni dovevo chinarmi molto, la schiena era completamente piegata in due, anche le ginocchia dovevo piegare, perché era troppo alto per quella volta. Dopo gli accordi tra Hitler e Mussolini del 20 luglio 1944, gli inni furono considerati lavoratori per il Reich, come se fossero dei volontari. Ovviamente erano lavoratori coatti. È venuto un medico e dice, domani ti portano al lazzaretto. Mamma mia, allora la mia vita è finita adesso, perché al lazzaretto si sa, si porta solo quelli che sono inabili al lavoro e lì si muore. Oh Dio, un altro campo di concentramento, che c'era tutta questa gente, tutta scheletrica, con teste che stavano neanche in piedi, pelati, proprio un disastro. Era proprio dire, qua è finita la mia vita. E insomma, non si può raccontare tante cose. Che addirittura c'era uno che poretto non era diventato quasi matto, che lui, perché prendeva il pane, lo masticava, lo sputava, lo teneva lì un pezzettino, poi lo metteva in bocca e lo masticava di nuovo. E allora chiede, ma perché fa questo? Ma dice, sempre lo fa così, perché per lui vuol dire che continua a mangiare, no? E invece mangia sempre, e quello che sputa, pensavo a che punto che eravamo. Un altro era, anche quello, andava sempre dove c'erano i morti, perché se ne morivano tanti. E stava dentro nelle ore a cantare le lene, forse pregava, chissà. Per fortuna è arrivata la prima lettera da casa. Ecco, lì è finito. Come si fa? Come si fa? Sa, io rivivo il momento che ti racconto le cose, le sento, le rivivo, e sono proprio, chissà, sono fatto male io. E una notte la bussano sui vetri e dice, chi è di Bolzano? Dico, sono io. Era un momento, sta coperta, che era una coperta fatta di giornali, perché quello che avevamo non era, doveva servire da pagliariccio e anche la coperta, era una coperta doppia fatta con i giornali, si vedevano proprio attraverso la trama del sacco, si vedevano i pezzi di giornale. E allora dice, tu sei di Bolzano? Sì. E dico, come mai ti parli italiano? Ah, dice, i miei sono di Naturno. E io sono, abbiamo optato per la grande Germania, e praticamente sto facendo il servizio militare per la Germania. Ah, dico bene. E dico, allora ho chiesto subito, ma a Bolzano cosa è successo? Ah, a Bolzano, dico, italiani li hanno mandati via tutti. Li hanno tutti quanti italiani sono andati via, perché ormai Bolzano è diventata Germania. Cos'era successo nel frattempo in Alto Adige? Le province di Bolzano, Trento e Belluno erano state riunite in una zona di operazioni delle Prealpi sotto il comando del Gauleiter Franz Hofer. Erano morti i tedeschi, non li ho mai odiati, anche se mi hanno imprigionato, non sono riuscito a odiare, perché eccoli, la vita è fatta di bianco e di nero, è vero? Ecco, così. Ah, sono morte. Sono venuti, erano ufficiali tedeschi assieme all'ambasciatore di Berlino, a un Fusman. E ci ha ringrazio, dice, il re vi ha traditi, è scappato, eccetera, e voi adesso siete, vi hanno imprigionato, però se volete aderite alla SS tedesche e praticamente diventate liberi. C'è stato un corpo di fischi, nessuno voleva, proprio tutti che protestavano, che gridavano insulti a questo ambasciatore. C'era anche uno vestito da fascista, con tutto di nero, con la polpetta, eccetera. E questa volta ci hanno chiesto di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, che era stata formata da Mussolini. E lì c'era stato, eravamo 5-6 mila in questo gran piazzale, forse sono andati via un centinaio, che hanno diritto di andare. Dice, ma sì, come il dopo torno a casa, scappo, quando... Insomma, io invece dico, sono stato con la maggioranza, dico no, io rimango. Ma sono prigioniero e che il destino sia quello che vuole, non lo voglio forzare, perché il destino ognuno se lo crea. Le motivazioni del no della stragrande maggioranza dei fini verso la collaborazione alla Repubblica Sociale Italiana e al Terzo Reich sono varie. Per gli ufficiali fu soprattutto la fedeltà alla monarchia e al giuramento prestato. Per la maggioranza dei soldati che avevano combattuto nei Balcani e in Russia era il rifiuto della guerra, di come l'avevano percepita, di come era stata gestita e della falsa propaganda del regime. Il 18 di giugno sono all'allarme e sentiamo gli aerei che passano proprio vicinissimi. Improvvisamente sentiamo proprio il finimondo che si scatena, fumo nero che non ci lasciava neanche respirare, gli occhi si sono riempiti di... eravamo tutti quanti, avevamo le mani, le facce tutte nere di fumo, cosa è successo? Avevamo bombardato proprio le fabbriche. Circa 500-600 metri dalla fabbrica, sono entrato dentro e era già pieno. Poi sentivo uno che mi hanno preso un braccio, tu non italiano, tu no, Deutsche, tu italiano, fuori, e me l'ho buttato fuori. Arriva a fine aprile e sentiamo Mussolini è stato ammazzato e in Italia la guerra è finita. Finalmente è finita la guerra, poi torniamo a casa. E infatti da un giorno o due abbiamo visto delle camionette inglesi e americane, purtroppo sono entrati nel nostro lager, noi abbiamo messo una bandiera italiana sopra la barca. E praticamente sono entrati e dice, voi italiani, sì, andremo a prendere e li portiamo da un'altra parte. Infatti sono venuti e si hanno caricato sul camion militare, eravamo felici, eravamo felici, e niente, era la Pasqua, non vedevamo l'ora di tornare a casa e vedere i nostri genitori, i nostri familiari. E siamo arrivati a Bolzano. Sono sceso da questo vagone con le gambe che mi tremavano dall'emozione di pensare quando sono salito sul vagone e adesso ci rimontavo da quel vagone e ero a casa di nuovo. Ho visto il papà e la mia sorella Renata con la madre in braccio e lì ci siamo abbracciati, non potevamo neanche parlare, erano solo le lacrime che parlavano in quel momento. Ecco, così da paura. Poi dico, andiamo dalla mamma adesso, allora siamo corsi dalla mamma, sono salito su per le scale di corsa. Se volavo, non sentivo più nulla. C'era la porta aperta, la mamma era in mezzo alla stanza. Avevo le mani. Rimasero dall'8 settembre 1943 al 9 maggio 1945. 2 anni rimasero dentro le stanze. Sapete in Europa quanti sono stati gli internati nei lager dai nazisti? Sono stati 17 milioni e 500 mila. 12 milioni sono morti. 12 milioni, 6 milioni erano gli ebrei, un popolo da distruggere, come il Rom, un popolo da distruggere, e anche 6 milioni. Se c'è qualcuno che ha qualche domanda, qualche breve intervento da fare. L'avete già fatto, però nominate sia l'autore del video che i parenti, che l'autrice dei disegni, sia del libro che i parenti che sono presenti. I parenti li abbiamo, la figlia Cristina l'abbiamo già salutata, salutiamo molto volentieri, benvenuta Mara Rauzzi. I parenti tutti, non so se ce ne siano altri, volevo anche cogliere l'occasione per ringraziare la professoressa Passardi che ha seguito Orazio nella sua prima scrittura, nella raccolta delle sue memorie, è stata sempre molto vicina, quindi grazie, un grazie va anche a lei. Qualcosa posso dire io perché per me è stata una grande rivelazione. Io... Venga qui, venga. Sì, prego. Sì, la tua. Ma sarà più comodo. No, ma sì. Appunto, io sono il marito, mio suocero, che è mancato un mese fa ormai, ha quasi 99 anni, era del 18, e quando io ho cominciato a frequentare appunto la famiglia di mia moglie pugliese, l'ho conosciuto nell'89 mi sembra, per la prima volta, e con grande sorpresa di mia moglie, di sua figlia, quindi ha passato una sera a raccontarci tutte le situazioni che ha vissuto nel campo di concentramento. Tra l'altro lui è fatto prigioniero a Sinandro, poi ha passato 2 o 3 a Corumbe Nostra, sì. Perché passato... era Sinandro e lui era un ufficiale, e poi quando è stato il 5 luglio l'hanno mandato tutti guardia di armata di frontiera, e perciò la sera, subito dopo l'armistizio, sono entrati già i polizia. Ecco, in effetti io, che sono molto curioso di questi eventi, io li avevo studiati nei libri di storia, ma a certe situazioni non credevo, cioè io non riuscivo a pensare come il re, fuggendo in Puglia appunto, l'89, quando a settembre potesse lasciare l'esercito così allo sbaraglio. Io ho detto, ma possibile che voi militari non sapeste che ci stavamo, stavamo passando dall'altra parte, ci stavamo alleando con gli americani? Possibile che lo sapessero i tedeschi e non lo sapeste voi? E lui mi raccontava che addirittura quando nella caserma appunto di Colombe Nostra hanno visto i tedeschi in assetto di guerra, loro gli hanno aperto le porte della caserma perché pensavano che volessero venire a rinforzarli. Si sapeva che la guerra stava andando male, forse pensavano a dei rinforzi, e invece li hanno disarmati immediatamente e via caricati. Appunto, molte delle cose che il Signore ha raccontato le rivedo di mio suocero: il fatto che non avevano armamenti, il fatto che non avevano vestiario invernale, il fatto che non gli avessero detto dove andavano. E appunto anche lui è andato a San Boster, e devo dire una cosa che mi ha meravigliato: che lui comunque era cosciente di essere un privilegiato rispetto ai Rom e rispetto agli ebrei, con i quali loro non potevano nemmeno avere contatti. Loro avevano le reazioni, avevano il pane, gli ebrei neanche quello, seppure a fettine, ecco. Poi appunto immaginatevi questo ufficiale solo perché aveva fatto il corso dei complementi, l'ufficiale di complemento, ha fatto il CAR a Pazin in Istria, Pisino, e poi mandato direttamente in Valle Nostra senza praticamente saper sparare. Anche lui la stessa situazione del nostro ospite, sì, di Orazio, scusate, non ricordavo il nome. Per cui per me è stata una rivelazione. Ed effettivamente la sera poi, tardissimo, con mia moglie dicevamo, ma caspita, io non sapevo tutte queste cose. Ho detto, ma tuo papà è una fonte inesauribile di informazioni, ma sai che a noi non l'ha mai voluto dire così in modo esteso? Era come se per 30 anni alle proprie figlie non volesse condividere queste esperienze tristissime. E poi tutto in una volta invece si è lasciato andare, si è aperta la riga. Ecco, solo grazie. Per questa grazie mille per la testimonianza. Possiamo chiudere qui, se volete c'è a disposizione una copia del CD, del DVD, scusate. Ringraziando Orfeo. Ringraziando Orfeo Donatini. Gratuitamente.